sei mai fuoco, per fuoco non si spensa, né fiume fu già mai secco per pioggia, ma sempre l'uno per l'altro simil poggia, e spesso l'uno contrario l'altro accense. Amor, tu che pensier nostri dispense, al qual un'alma in due corpi s'appoggia, perché fa in lei con disusata foggia, men per molto voler le voglie intense, forse sì, come il Nil d'alto cagendo, col gran suono i vicin d'intorno assorda, e il sole abbaglia chi ben fisso il guarda, così il desio che seco non s'accorda, nello sfrenato bietto vien perdendo, e per troppo spronar la fuga è tarda, nello sfrenato obietto vien perdendo, e per troppo spronar la fuga è tarda. Sei mai fuoco, per fuoco non si spensa, né fiume fu già mai secco per pioggia, ma sempre l'un per l'altro simil poggia, e spesso l'un contrario l'altro accense. Amor, tu che pensier nostri dispense, al qual un'alma in due corpi s'appoggia, perché fai lei con disusata foggia, men per molto voler le voglie intense, forse sì, come il Nil d'alto cagendo, col gran suono i vicini d'intorno assorda, e il sole abbaglia chi ben fisso il guarda, così il desio che secco non s'accorda, nello sfrenato bieto vien perdendo, e per troppo spronar la fuga è tarda, nello sfrenato obietto vien perdendo, e per troppo spronar la fuga è tarda. Sei mai fuoco, per fuoco non si spense.